Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di un tema fondamentale per l'economia italiana, per la società italiana, per la crescita, direi, per il benessere di tutti noi. Parliamo di esportazioni, il libro di cui parliamo è Esportare l'Italia di Antonio Belloni. Buonasera Antonio Belloni. Buonasera. Antonio Belloni, laureato in scienze internazionali a Milano, da oltre 10 anni si occupa di export dentro e fuori le PMI tra capannoni e ricerca. E questo libro, edito da Guerini e Associati, è un libro che è insieme un manuale per capire l'importanza delle esportazioni e anche per cercare di dare qualche consiglio utile, qualche istruzione per l'uso alle piccole e medie imprese che sono la spina dorsale dell'economia italiana e che vedono nelle esportazioni un elemento fondamentale per avviare la crescita, dato che sul mercato interno a livello di consumi più che di stagnazione non si parla. Allora Antonio Belloni, il sottotitolo di questo libro è Virtù o necessità? Virtù perché, necessità perché? Antonio Belloni. Virtù perché sono cambiati i tempi. Prima esportare era una cosa per pochi, che facevano poche aziende, le aziende direi migliori, con i prodotti migliori. Oggi è diventata una necessità, giustamente per uno dei motivi che ha detto lei prima, per il grosso calo della crescita, non solo quello, non solo PIL e produttività, ma calo di investimenti privati, di investimenti pubblici, anche della natalità, che è un indice che poi si ripercuote sui consumi interni. Quindi è fondamentale per le nostre aziende, diciamo, andare a brucare nell'erba del vicino, dove si consuma ancora. Ecco perché esportare prima era, ripeto, una tu per pochi, oggi sempre più difficile, ma sempre più necessario. Quindi una necessità concreta. Ecco, però le basi dell'economia italiana sono comunque basi che vedono le esportazioni come un elemento che ha sempre contraddistinto un po' anche le piccole e medie imprese, anche se magari erano esportazioni sulla porta di casa, verso la Francia, la Germania, verso paesi in un certo senso più facili. Comunque l'Italia è sempre stato export oriented, come dicono gli esperti. Certamente per un motivo molto particolare, per cui le nostre piccole e medie imprese sono molto forti nel prodotto, come dico, hanno la forza del primo prodotto. Poi magari non sono molto bravi ad industrializzarlo e quindi a tirarne fuori concreto valore, soprattutto per le dimensioni, però sono molto forti nell'invenzione, nella creatività, in temi che ormai tutti conosciamo e che purtroppo non vanno a bilancio. E quindi per le piccole e medie imprese è anche difficile giustificare richieste di credito per andare all'estero o richieste di credito per aumentare le proprie dimensioni. Quindi una forza del prodotto che rimane nonostante la dimensione rimanga piuttosto ridotta, perché stiamo parlando di aziende medio-piccole che principalmente vanno all'estero. Che comunque hanno creato negli anni, nei decenni, un'immagine del Made in Italy molto forte, un'immagine del Made in Italy che è sicuramente il bello, sicuramente la qualità, ma è anche su molti fronti l'innovazione tecnologica, la capacità di creare delle novità in ambiti anche tradizionali come quello dell'alimentare, come quello per esempio delle moto. Lei cita per esempio i casi di Barilla e di Piaggio che hanno portato all'estero dei marchi e insieme a questi marchi anche un'immagine del Made in Italy molto forte. Esattamente, quando pensiamo a creatività, design, ma anche pensiamo alla managerialità, abbiamo tantissimi manager italiani che hanno molto più successo all'estero, sono meglio pagati, meglio considerati, pensiamo anche al valore del nostro brand, quindi è tutta una serie di cartucce immateriali che invece fuori colpiscono il bersaglio molto bene. Per questo le nostre aziende sono così forti fuori e magari fanno più fatica nel nostro paese, perché alla fine esportare è un processo di selezione naturale che costringe l'azienda, costringe l'imprenditore, costringe il manager a tirare fuori idee migliori, soluzioni migliori, efficienza, e quindi nasce un forte confronto. È un po' una prova del 9 andare fuori, andare nei mercati esteri, ecco, e ci riusciamo bene nonostante tutto. Ecco, ci riusciamo bene, però ci confrontiamo appunto adesso con l'esigenza di esportare in mercati più lontani, non più solo in Europa, che ormai è un mercato interno, ma anche in quello che lei chiama la nuova terra promessa del secondo capitolo di questo libro, cioè i paesi emergenti, i cosiddetti BRICS, la Cina, l'India, il Brasile, la Russia, paesi in cui certamente ci sono mercati che crescono più velocemente, ma in cui le regole sono differenti, in cui le lingue sono differenti, in cui le procedure anche sono più complesse. Che cosa può fare l'azienda italiana per conquistare questa terra promessa? Stare molto attenta alle dinamiche di mercato molto concrete, reali, quindi alle necessità di quelli che sono i clienti esteri. Questo è molto difficile, perché fino adesso è un passaggio piuttosto automatico. Veicolare il Made in Italy è relativamente semplice se si tratta di far acquistare prodotti italiani. Più difficile diventa adeguare il prodotto alle esigenze di questi nuovi mercati, che, attenzione, non seguiamo i mantra degli analisti internazionali. Oggi la Cina può andare bene, come vediamo, basta qualche piccola instabilità per creare problemi alle nostre aziende. Quindi non è detto che i BRIC, gli STEAM e tutti gli altri mantra che oggi funzionano non cambino tra 6 mesi, tra 3 mesi. Oggi è diventato tutto molto difficile per le nostre piccole e medie imprese, perché c'è un mondo ad alta varianza, no? Multispeed, quindi un paese va veloce, rallenta per qualche mese, cambiano le abitudini di consumo, da una parte c'è l'inflazione, dall'altra c'è il protezionismo, quindi le piccole e medie imprese devono affrontare una miriade infinita di cambiamenti. Quindi per questo esportare rimane una necessità, però correntemente difficile. Ecco, l'ultimo capitolo del libro si intitola Quale modello per il futuro? Quale modello di impresa? Un'impresa che deve tener conto appunto di queste variabili internazionali, che deve diventare anche più professionale, deve cercare di avere delle managerialità appunto indirizzate verso le esportazioni. Ma la piccola impresa come può avere un modello nuovo orientato verso il futuro? A tutt'oggi la piccola media impresa, quando va all'estero, principalmente per l'80% di casi lo fa per vendere, però ci sono forme di internazionalizzazione più elaborate, come per alcune aziende tecnologiche, per esempio della domotica in Italia, dove gli ingegneri pensano il prodotto in Italia, lo producono in Cina, poi lo commercializzano in altre parti del mondo. Quindi il modello dell'azienda del futuro, non quello tuttora corrente, potrà essere avere il cervello in Italia, quindi la creatività e instillare tutto quello che è la qualità e il design in Italia, la produzione farla con assemblaggio all'estero e poi la vendita magari altrove ancora. La Germania per esempio oggi fa così, quindi assembla dall'estero i prodotti con meno valore aggiunto, dove li paga poco, compra la qualità italiana, 40% delle parti di un Audi sono fatte in Italia, assembla e poi vende chissà dove, vende in Cina, dove l'Audi ha grossi valori di crescita. Questo è già un modello. Il problema è che fino ad oggi siamo andati in ordine sparso e non abbiamo scelto un modello, non abbiamo deciso un modello. Quindi l'esportazione delle piccole e medie imprese è uno stato dell'arte che si è creato da solo. Grazie alla capacità dei nostri imprenditori, per il futuro bisognerà anche decidere cosa essere. Ecco, cosa essere in fondo, con quella selezione darwiniana a cui accenna in conclusione del volume Il futuro con Darwin, l'azienda leggera, un'azienda leggera capace appunto di sfruttare la forza anche di altri paesi come quella della Germania, ma anche di andare in proprio, di muoversi con flessibilità, con capacità, con propensione appunto a cercare nuove formule che in un paese di creativi, come accenna appunto Marco Alfieri nella sua introduzione, un paese di creativi possono comunque venire fuori anche a livello organizzativo, anche a livello progettuale, non solo a livello di prodotto. Certamente, oggi purtroppo o per fortuna non si può più prescindere dall'export, e l'export per noi oggi vuol dire prodotti, vuol dire idee, vuol dire uomini. Ecco perché rimane una virtù, come ho detto, ed è sempre più una necessità. Poi tasse, costo del lavoro, costo del denaro, costo dell'energia, burocrazia, rimaniamo dei campioni, le nostre piccole e medie imprese rimangono dei grandi campioni, perché nonostante questi problemi i successi ci sono. E quindi possiamo concludere citando l'ottimismo della volontà nel sì, fatto che l'Italia ha la possibilità di affrontare anche questa sfida, una sfida appunto essenziale, una sfida che non ha mai un risultato definitivo, ma è continuo un cammino verso una crescita che appunto fondata sull'export può essere anche una crescita di qualità delle imprese. Certamente, una crescita soprattutto consapevole. Grazie ad Antonio Belloni, autore del libro Esportare l'Italia, prefazione di Marco Alfieri, Esportare l'Italia, virtù o necessità, edito da Guerini e Associati, sono 169 pagine per €17,50, un libro che è anche un manuale di istruzioni per l'uso per capire l'economia italiana e per cercare di far affrontare alle imprese le nuove sfide che l'economia italiana ha di fronte. Dopo aver parlato dell'economia concreta, dell'economia aziendale, dell'affrontare la crisi con Antonio Belloni, Esportare l'Italia, parliamo di un altro piccolo libro che aiuta una riflessione sui caratteri di fondo della crisi, sul carattere, diciamo così, antropologico di questa crisi economica che stiamo vivendo. Si è parlato molto di fallimento del mercato, di incapacità dello Stato, di ricostituire l'economia sulla base di un rapporto corretto tra la finalità, le persone e gli strumenti. Però bisogna anche cercare cercare di mettere al primo posto le persone e non gli strumenti, cioè il denaro e il mercato. Ecco, su questo percorso ci aiuta il libro di Stefano Zamagni, Per un'economia a misura di persona, edito da Città Nuova. Un percorso in cui riprende con chiarezza l'economia di comunione, quell'ipotesi che non è più tanto un'ipotesi ma anche una realtà, anche se piccola, sostenuta con coraggio intellettuale di iniziative concrete dal movimento dei focolari. E Luigino Bruni, che è un esponente di questo movimento, nell'introduzione afferma infatti che fin dalla sua fondazione la scienza economica ha sofferto di una forte parsimonia antropologica per essersi fondata su un'idea di agente economico, l'homo economicus, riduzionista. E con queste premesse, afferma ancora Luigino Bruni, la scienza economica vive l'esperienza di non avere più strumenti per leggere adeguatamente un mondo che cambia troppo rapidamente rispetto alla capacità di capirlo e magari di prevedere i comportamenti economici delle persone e delle istituzioni. Quindi a 4 anni dall'inizio della crisi vi è una ragionevole certezza che dalle difficoltà non si potrà uscire né aspettando l'evolversi di un automatico ciclo economico né confidando negli interventi risolutivi degli stati da soli o liberamente organizzati come per esempio nell'Unione Europea. Una pur graduale uscita della crisi non potrà prescindere da un elemento estremamente facile da indicare, ma estremamente complesso da mobilitare, quello della persona, su cui costruire non solo valori, peraltro fondamentali, ma anche motivazioni e fiducia nella concretezza del presente. Questo vuol dire liberare quella capacità creativa che sola è in grado di costruire soluzioni nuove, fuggendo dalla tentazione di applicare vecchi schemi ideologici a problemi nuovi. Ecco quindi questo libro, un libro di Stefano Zamagni, docente di economia all'Università di Bologna, un grande esperto del settore economico, soprattutto nella prospettiva dell'economia dal volto umano, possiamo chiamarla così, un'economia a misura di persona, edito da Città Nuova, sono 90 pagine per 8,50 euro. Da non perdere. Ecco, concludiamo questa volta questa rubrica di Economia in Pagine segnalando molto brevemente un libro importante, un libro di Daniel Friedman, un economista americano, si intitola Morale e Mercato, edito da IBL Libri, Istituto Bruno Leoni Libri, nella collana Mercato, Diritto e Libertà. Morale e Mercato, storia evolutiva del mondo moderno, con prefazione di Gilberto Corbellini, è un'analisi raccontata attraverso molti episodi, molte realtà, molte esperienze concrete dei rapporti appunto tra la morale, che è una parola forse difficile da comprendere se non nei suoi aspetti più immediati, ma è il mercato e la realtà invece di un mercato che, come abbiamo visto poco fa nel libro di Stefano Zamagni, comunque è fondamentale nell'avere al centro appunto la persona. Anche su questo il libro di Daniel Friedman è un libro che può rappresentare un'occasione di riflessione importante per capire quali sono i rapporti tra la persona e il mercato e che come il mercato può essere al servizio delle persone e non viceversa. Ripetiamo il libro Daniel Friedman, Morale e Mercato, storia evolutiva del mondo moderno, edito da IBL Libri, costa 22 euro per 430 pagine. Grazie e l'appuntamento è per sabato prossimo.